Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, il programma prevede di parlare di autorizzazioni a procedere, del fatto che la quantità di informazioni garantisca una buona fiducia nell'impunità, del D come consonante eufonica e di un racconto etimologico.